Mi adori perché tutto quello che so è che non so dire di no. E sì, quando chiedi beviamone un po', e sì, quando chiedi fumiamone un po'. Entriamo nei privé tutti con la tuta, facciamo alzare la gente seduta. Abbiamo sculture fatte con la frutta e bottiglie grosse come bazooka. Salta e facciamo tremare la terra, denti d'oro, orecchini di perla. Bacia il profumo mielato dell'erba, sbuffami addosso una serra. Flexa, flexa per l'estate, spiaggia, disco, raggi laser. La gente balla per le strade, frate. Anche di lunedì sappiamo come il bagno del MotoGP. Beviamo tutto e poi gli chiediamo il bis. Qua dentro fa più caldo che a Miami Beach. Parra pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Parra pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Parra pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Parra pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Che fatica la vita di notte, oramai ho il fegato dei cocktail. Musica fino alla morte, bandita 100.000 volte. E dietro ste tipe si fanno le foto coi player dopo le partite. Si fanno la A, la B, la C, esattamente come le patite. Fra, siamo i padroni di questa città, se glielo chiedi sicuro ci sta. Addosso capi cari, roba di pali, la gente lo sente l'odore di star. Flexa, flexa le serate, metti il pezzo dell'estate. Fai ballare anche le statue, frate. Fino anche di lunedì sappiamo come il bagno del MotoGP. Beviamo tutto e poi gli chiediamo il bis. Qua dentro fa più caldo che a Miami Beach. Parra pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Parra pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Parra pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Parra pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Flexa, flexa per l'estate, spiaggia, disco, raggi laser. La gente balla per le strade, frate. Flexa, flexa le serate, metti il pezzo dell'estate. Fai ballare anche le statue, frate. Sei del mattino anche di lunedì, sappiamo come.